cosa voleva dire il volto tuo nel dirmi addio. E quell'indefinibile sorriso, perché non scompariva dal tuo viso? Mary, solamente un sorriso, un certo sorriso che non si dimentica. Tu sei stata per me il più dolce romanzo, un dolce romanzo che non ha più pagine. Dove sarai, sempre sarò come l'ombra nel sole, pur se un gelido sole sei tu. Solamente un sorriso, un certo sorriso che non si dimentica. Sorriso, m'è rimasto.